Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Oh, hey, Biff. Hey, guys. How are you doing? Yeah, you got my homework finished, McFly? Well, actually, I figured since it wasn't due till Monday... Hello? Hello? Anybody home? Hey, think, McFly. Think. I gotta have time to recopy it. You realize what would happen if I hand in my homework in your handwriting? I'd get kicked out of school. You wouldn't want that to happen, would you? Would you? Well, now, of course not. No, I wouldn't want that to happen. Tonight we're gonna make love. You know how I know? Because it's Wednesday. And Wednesday night is the night that we usually make love. Monday night is my night to cook. Tuesday night we go and visit your mother. But Wednesday we make sweet weekly love. It's when everything is just right. There's nothing good on TV. You haven't had your after work social sports team practice, so you're not too tired. Oh, it's all on. You lean in and whisper something sexy in my ear like, I might go to bed now, I've got work in the morning. I know what you're trying to say, girl. You're trying to say, oh yeah, it's business time. It's business time. It's business. It's business. Then went in the bathroom, brushing our teeth. That's all part of the foreplay. I love foreplay. A shaker, shaker, a shaker, shaker, a shaker, shaker. Ow, ow, ow. Then you sort out the recycling. That isn't part of the foreplay process, but it is still very important. Next thing you know, we're in the bedroom. You're wearing that baggy old ugly t-shirt you got from your work several years ago. You know the one, baby, with the curry stain. Ow. I remove my clothes very, very clumsily, tripping sensuously over my pants. Now I'm naked, except for my socks And you know when I'm down to just my socks, what time it is. When it's with me, girl, you only need 2 minutes, because I'm so intense. You whisper something sexy like, is that it? I know what you're trying to say, girl. You're trying to say, oh yeah, that's it. And you tell me you want some more. Well, I'm not surprised, but I'm quite sleepy. State ascoltando la seconda parte di Eclettica, tutti i giorni fra le 19 e le 20 in compagnia di Giulio Caperdoni e tanta, tanta nuova musica, come la musica venata di parodia. C'è sempre un sorriso nelle loro canzoni del duo neozelandese Flight of the Conchords che ci siamo appena ascoltati con Business Time. E prima ancora invece era stato Oxford, Inghilterra, con la formazione di nome John Quill, un sestetto che è molto legato, secondo me, a atmosfere musicali d'oltreoceano, sia dal Canada che dagli Stati Uniti. Mi vengono in mente sia le band della Arts and Crafts che anche Beirut. John Quill è il nome della formazione inglese che ci siamo ascoltati con il brano che dà anche il titolo al loro album del 2007 per Try Harder. Lions è il titolo di entrambi. Nuova musica come quella che sta per arrivare, Devastations. Loro sono australiani, sono un trio originari di Melbourne, ma ora stanno girando per l'Europa. Si scelgono una città e ci abitano per un anno e poi cambiano. Sono stati a Berlino, ora sono a Londra e da lì arriva la loro musica. Il pezzo che ci ascoltiamo è Mistakes. Yeah. Arrivai a New Orleans sotto la pioggia, alle 5 del mattino. Mi fermai alla stazione degli autobus per un po', ma la gente mi deprimeva, tanto che presi la valigia, uscii nella pioggia e cominciai a camminare. Non sapevo dove fosse la pensione, dove fosse il quartiere povero. Avevo una valigia di cartone che cadeva a pezzi. Una volta era stata nera, ma il nero si era scrostato e sotto si vedeva il cartone giallo. Avevo cercato di rimediare spalmando di lucido nero il cartone scoperto, ma mentre camminavo, la pioggia lavava via il lucido e mi feci due belle strisce nere sulle gambe dei pantaloni, passando la valigia da una mano all'altra. Questo era l'incipit di Factotum di Charles Bukowski. In this slop house? Watch it, Goldie. No, sir. I'm gonna make something of myself. I'm going to night school, and one day I'm gonna be somebody. That's right. He's gonna be mayor. Yeah, I'm in... mayor. Now that's a good idea. I could run for mayor. A colored mayor. That'll be the day. You wait and see, Mr. Carruthers. I will be mayor. I'll be the most powerful man in Hill Valley, and I'm gonna clean up this town. Good. You can start by sweeping the floor. Baby doll, you've been lonely, I've been out of town. in the unintended circus clown, looking for someone just like you, girl. But now the stars are going out and old familiar halls are falling off the grid. I wanna get back on your list and resurrect the things we did. Baby doll, I've been circling the whole world round, trying to find the ones who stole my sound, so I could bring it back to you, girl. You'll be sashed in satin, I'll be purring like a kitty cat, and you won't sit in silence like you do. Then you can tell me I'm the only one. You'll make love to me too. Than you deserve, but if I don't, I'm guessing I won't get the chance to make amends. While I'm paying you, being the ladies, making contact with your friends, then you'll disappear again. Lui ha scritto grandi hit soprattutto negli Stati Uniti, ma qualcuno di questo anche al di qua dell'oceano ha avuto il suo spazio, per esempio Closing Time. Al tempo era nella formazione di nome Semisonic e ora invece è una carriera solista. Dan Wilson, appena ascoltato con Baby Doll, tutto questo da Free Life, uscito il 16 di ottobre per American Recordings. Prima ancora ci eravamo ascoltati Celebration e finalmente, dopo aver ascoltato tanti diversi brani dalla band capitanata da Katrina Ford, la band di Baltimore nel Maryland, finalmente anche in Eclettica abbiamo dato spazio a quello che è considerato il singolo ufficiale, così l'etichetta sicuramente sarà contenta. Evergreen è il titolo di questo pezzo che ci siamo ascoltati ormai qualche minuto fa. Per dare ora spazio all'interno di Eclettica invece alla musica più di matrice elettronica, Guillermo Scott Heron, più conosciuto come Prefuse 73, nato da padre catalano e da madre irlandese e cubana, metà e metà, a Miami, Florida, quindi un cittadino del mondo, e ha cominciato a fare musica a Atlanta, in Georgia, dove era cresciuto. È arrivato al suo quarto album per la Warp Records, uscito il 23 di ottobre, album che si intitola Preparations e dal quale ci ascoltiamo The Class of 73 Bells. Un paio di giorni telefonò Pinchot. Disse che voleva andare avanti con la sceneggiatura. Potevamo vederci giù da lui? Così ci facemmo spiegare la strada, salimmo nella Volks e puntammo verso Marina del Rey, territorio sconosciuto. Arrivammo al porto e passammo accanto alle barche. Erano quasi tutte a vela e c'era gente che trafficava sul ponte. Tutti con addosso quei loro capi da barca esclusivi, berretti, cerate scure. Quasi tutti, chissà come, erano evidentemente riusciti a tirarsi fuori dal tritacarne quotidiano dell'esistenza. Meglio, non erano mai rimasti presi nel tritacarne e non lo sarebbero mai stati. Era questa la ricompensa per gli eletti nella terra degli uomini liberi. Dopo un po' mi sembrarono un tantino assurdi e naturalmente io non ero nemmeno nei loro pensieri. Questo era l'incipit di Hollywood, Hollywood, di Charles Bukowski. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 1, volume numero 3. Indice: Thurston Moore e Christina Carter. Bonde d'Orole, Manchester Orchestra. Levy, Scott Niblett assieme a Will Oldham. Richard Swift, John Quill. Flight of the Conchords, Devastations. Celebration, Dan Wilson. Prefuse 73. E abbiamo chiuso con The Morning Benders e Damn It, Anna. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.